Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritornati, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Cominciamo con un po' di musica. Non so se questo ha molto a che fare con il tema della puntata di oggi, o forse sì. Si chiama Med Malek A Notre Complot, questo un altro complotto, questo è il titolo del brano con cui abbiamo aperto lo Zibaldone di questo 12 luglio, penultima puntata della stagione. No, non parleremo di Ahmed Malek e non parleremo della sua meravigliosa musica, soprattutto colonne sonore. Lui è stato un grandissimo compositore, soprattutto di colonne sonore per il cinema e la TV, algerino, attivo soprattutto tra gli anni 60 e l'inizio di questo millennio. Ha fatto tantissime cose, riuscendo a mischiare, no? A mettere anche in dialogo la musica tradizionale algerina con delle correnti più moderniste, utilizzando anche, no, i sintetizzatori. Avete sentito qualcosa qui, sono tantissimi film per cui ha scritto le musiche, e lo mandiamo in onda perché da poco è uscito una trilogia, tre volumi che raccolgono una specie di best of delle musiche originali dei film composte da Ahmed Malek da parte di Habibi Funk, che è una interessantissima etichetta discografica tedesca che spulcia alcune delle cose migliori che hanno a che fare spesso con il funk, ma non solo, della tradizione del mondo arabo, dal Medio Oriente al Nord Africa, con delle cose a volte davvero particolari e sempre interessanti. Sono sempre delle scoperte. Habibi Funk, andatevelo a cercare, soprattutto andatevi a cercare Ahmed Malek, con cui abbiamo aperto lo Zibaldone di quest'oggi. Non parleremo di lui. Di cosa parleremo? Forse ve lo cerco di far capire con una canzone, forse anche qualcosa di più. Vediamo se lo capite a partire da questa voce, da questi versi e da questo ritmo. L'uomo falco vola in alto sul suo trono di diamante. Pura nega sempre ed è muto come un pesce. Lui è uomo fatto, e se qualcuno lo cerca, lui vola più in alto, perché

di Giulio Andreotti, evidentemente, soprattutto della crisi della Prima Repubblica e del ruolo di Andreotti in quel momento, no? Parliamo degli anni 1991-1994 approssimativamente. E la canzone precedente che ci siamo invece ascoltati, la voce era inconfondibile, l'avrete riconosciuta, di Antonello Venditti, il 1978, quando uscì L'Uomo Falco, no? In quello storico e molto apprezzato album, Sotto il segno dei pesci, del cantautore romano, che disco uscito appunto nel 78, pochi mesi dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, e che è un caustico ritratto dell'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, anche se Venditti non ha mai ammesso ufficialmente che L'Uomo Falco fosse appunto una canzone dedicata e molto critica con Andreotti. Bene, di Giulio Andreotti parleremo quest'oggi in questa puntata di Zibaldone, che rientra nel ciclo che abbiamo cominciato all'inizio di questo 2024, intitolato 30 anni fa, dalla discesa in campo di Berlusconi a Tangentopoli, a le leghe regionaliste, soprattutto la Lega Nord, e poi le stragi mafiose, no? Ci sono stati vari ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio nei mesi scorsi. Quest'oggi continuiamo e lo facciamo insieme a un altro ospite, è lo storico saggista Aldo Giannulli, che ha da poco pubblicato proprio un libro, è uscito nell'ottobre dello scorso anno, per il decennale della morte di Andreotti, che è scomparso, lo ricordo, nel 2013, proprio dedicato a Giulio Andreotti. E con Aldo Giannulli parleremo nei prossimi minuti della figura di Andreotti e soprattutto anche del ruolo che ha avuto Andreotti negli anni della crisi della Prima Repubblica, quindi 30 anni fa, come si intitola il nostro ciclo. Andiamo con un altro breve frammento tratto dalla colonna sonora del Divo, Teo Teardo, I miei vecchi lettori, così si chiama questo brano che accompagnava un altro momento molto conosciuto di quel film. Eccoci qui in diretta con l'ospite di questa puntata di Zibaldone, Aldo Giannulli, storico, saggista, già professore alla Università Statale di Milano, autore di tantissimi libri, l'ultimo uscito nell'ottobre dello scorso anno, del 2023, è dedicato a Giulio Andreotti. Andreotti, il grande regista, 70 anni di storia politica italiana, fra luci e tenebre, dalla parte del potere, uscito per i tipi di Ponte alle Grazie. Aldo, un piacere enorme averti con noi a Zibaldone, come stai? Sai che il piacere è più mio, ti ringrazio. Con Aldo siamo amici da tanti anni, quindi è un piacere davvero che ci accompagni quest'oggi. E Aldo, soprattutto poi, non solo per parlare del quest'anno, sono esattamente 15 anni che ci conosciamo. Ecco, vedi come vola il tempo, come passano gli anni. Tu in questi 15 anni di libri ne hai pubblicati tantissimi e in molti hai affrontato, no, le ombre della Prima Repubblica Italiana, anche della Seconda, insieme a tanti altri temi. Ecco, con questo tuo libro su Andreotti il grande regista, ritorni, seguendo la biografia del Divo Giulio, su molti di questi elementi. La prima domanda che ti volevo lanciare è, insomma, affrontare la biografia di una figura politica come Giulio Andreotti, che tanto ha segnato la Prima Repubblica e non solo la storia della Prima Repubblica italiana, insomma, non è facile. Come affrontare appunto una biografia di Andreotti? Qual è stata la tua scelta? Come hai voluto approcciarti appunto al Divo Giulio? Ma sai, parti da una considerazione, che come sai io politicamente sono sempre stato dalla parte opposta a quella di Andreotti, però devo confessare che Sì, sono sempre stato un suo avversario politico, ma ho sempre avuto simpatia personale per lui. E in particolare io non ho mai condiviso il discorso, che gira molto, di Andreotti, anima nera della Repubblica. Non che Andreotti non abbia avuto i suoi lati oscuri, per carità, e non li nascondo assolutamente nella biografia, ma perché da un lato questo finisce per assolvere altri di altre colpe pesanti, magari scaricandole su Andreotti, ma soprattutto perché poi in qualche modo si finisce per ridurre Andreotti solo a questa immagine tutta negativa, diabolica, eccetera, dimenticando che nel bene e nel male, e io personalmente non ho condiviso la politica di Andreotti, però riconosco che è stato uno dei maggiori statisti europei della seconda metà del Novecento. Non è stato uno qualsiasi, è stato un personaggio che ha avuto anche un ruolo importante, per esempio, nell'unificazione europea, per esempio anche nel mantenere certi livelli di indipendenza dell'Italia dall'ingombrante alleato di oltreoceano. E quindi la falsariga è stata quella di ricostruire l'Andreotti politico, affrontando anche gli aspetti scabrosi della sua biografia, ma dicendo che non sono gli unici. C'è molto altro nella biografia di Andreotti. Sì. Ascolta, appunto, già che parlavi di politica, partirei da questo. Andreotti come politico, insomma, no? Fin dagli anni 40, giovanissimo, Andreotti è stato, possiamo dire così, la Democrazia Cristiana. E questo lo dico perché, sai, quando bisogna spiegare cosa è stata la DC, si dice la balena bianca. Dentro la DC c'erano tante cose, si nominano, certo, no? De Gasperi a Moro, da Andreotti a Cossiga, Forlani, a Rumor, a Piccoli, eccetera, eccetera. Insomma, Andreotti cos'è stato dentro la DC? Andreotti, secondo me, è stato il più cattolico e il meno democristiano degli esponenti della DC. E infatti non è stato mai amato dalla DC. Lui aveva la sua corrente personale, Primavera, il nucleo di fedelissimi, riceveva un tripudio di voti nella sua circoscrizione, ma è sempre stato un isolato nella DC. Non è mai stato particolarmente amato. In compenso però posso dirti una cosa, che fosse stato uno dei pochi cattolici credenti nella Democrazia Cristiana, dove di credenti non è che ce ne fossero tantissimi. Lui è stato sicuramente un uomo molto legato alla Curia Vaticana, questo di sicuro. E in questo senso si parla spesso di Andreotti come uomo degli americani, che è stato in alcuni momenti, ma non sempre, soprattutto negli anni Ottanta gli americani non potevano vederlo, però è sempre stato uomo di Santa Madre Chiesa, questo sì. Quindi, come vedi, un personaggio molto contraddittorio. Se vuoi, paradossalmente era più come spirito, era più vicino al Partito Popolare di prima, che aveva dato poi, dopo, le origini alla Democrazia Cristiana. Lui era più un popolare che un democristiano. E da questo punto di vista, no, parlavi degli Stati Uniti, insomma, per anche avvicinarci al momento, no, ci stiamo, come ti annunciavo fuori onda prima, ci stiamo un po', stiamo seguendo la crisi dei 30 anni fa, della fine della Prima Repubblica, una serie di puntate qui a Zibaldone, e rapporto con gli americani, Andreotti, subito viene in mente la famosa dichiarazione che Andreotti dice: è esistita Gladio. Vi spiego cos'è Gladio, no? Sì. Siamo subito dopo la caduta del muro di Berlino, ecco, sì. Questo ovviamente, insomma, è qualcosa che ha avuto a che fare anche, o ha cambiato la sua relazione con Washington, e soprattutto come Washington vedeva Andreotti rispetto agli anni 60, 70 e 80. Allora, nella biografia di Andreotti ci sono vari momenti. C'è stato il momento in cui certamente lui era l'uomo più vicino agli americani, ed è stato il periodo in cui lui è stato il ministro della difesa, cioè dal 59 al 66, periodo lunghissimo. Tu pensa che io all'epoca ero un bambino e andavo a cinema con mio padre, dove si faceva fra il primo e il secondo tempo un cinegiornale, e in questo cinegiornale spesso si parlava, che so, dell'inaugurazione di un'opera pubblica, di qualcosa, da parte del ministro della difesa Giulio Andreotti. Io ero convinto che Giulio Andreotti facesse parte della qualifica, cioè il ministro della difesa Giulio Andreotti per me era tutto un insieme, cioè non era una cosa dell'uomo e la carica, era tutto insieme. Quello è stato il periodo più filodemocristiano. Poi c'è stato il periodo, diciamo, in cui lui è stato presidente del Consiglio, eccetera, ancora abbastanza vicino alla DC, ma con una sua autonomia. E poi c'è stato il periodo anni 80, che è stato quello che man mano lo ha visto contrapposto alla DC. Tu hai parlato di Gladio, giustamente, ma guarda che le frizioni con la democrazia, con gli Stati Uniti, sono iniziate da molto prima. E sono cose che io nel libro riprendo, che spesso sono totalmente dimenticate. Per esempio, la posizione di Andreotti sull'Etiopia. Etiopia che in quel momento era passata in area di influenza sovietica. Uh-huh. E Andreotti, e insomma, fece una politica molto aperta a sostegno del governo etiopico, oppure per esempio sulle questioni del Medio Oriente, la Palestina, o anche su altri aspetti, c'è un progressivo allontanamento, perché Andreotti inizia a scoprire la posizione un po' del battitore libero. In particolare è fondamentale il suo libro sulla Russia vista da vicino, l'URSS vista da vicino, che sicuramente non avrà fatto piacere agli americani. Quando si arriva a Gladio, già le rotture si sono prodotte, e quella è semplicemente la manifestazione pubblica di questa rottura gravissima che c'è fra Andreotti e gli americani. E poi sul periodo 92-94 ci voglio tornare tra un attimo, ma visto che parliamo anche degli anni precedenti, ovviamente della biografia di Andreotti, mi piacerebbe anche che riassumessi, se così vuoi, anche perché tanto si è scritto, e appunto anche questa un po' maniera romanzata di raccontare la storia con tanta dietrologia, no? Che piace tanto agli italiani. Ecco, sui misteri d'Italia, Andreotti, no? Il golpe borghese, il caso Moro, parliamo, no? Degli anni fine 69-70 il primo, 78 il secondo, il noto servizio su cui tu hai scritto un libro che ha avuto un enorme successo, sì. La P2, il caso Pecorelli, insomma, ecco. Quanto c'è di vero di tutto quello che circola, allora, sul web su Andreotti e tutti questi casi, no? Tu dici, all'inizio ci dicevi, sì, non sono d'accordo nel vedere Andreotti questa immagine così dell'anima nera e nulla di più, no? Ma in fin dei conti è poi lì, insomma, che ruolo ha avuto Andreotti? Allora, Andreotti ha le sue colpe, certamente, adesso diremo rapidamente quali. Però attenzione, il bello è che i guai li ha passati per le cose che non ha fatto. Allora, veniamo alle cose che ha fatto. Certamente Andreotti fu un po' il protettore del noto servizio, che è stata una delle più grosse deviazioni del mondo dell'intelligence italiana, anche se ufficialmente non era un servizio segreto, però svolgeva quelle funzioni, e Andreotti ha coperto queste cose anche rispetto a cose piuttosto gravi. Andreotti certamente ha responsabilità in alcuni scandali come quello dei falsi danni di guerra. Ecco, fin qui ci siamo. Le cose che Andreotti non ha fatto. Allora, prima di tutto il caso Pecorelli. Non è assolutamente credibile che Andreotti sia il mandante di quell'omicidio, cosa che sarebbe stata assolutamente controproducente per lui e di cui non aveva bisogno nel momento in cui era Presidente del Consiglio e aveva in maggioranza il Partito Comunista che votava sistematicamente contro le proposte di deferirlo all'Alta Corte di Giustizia. Per quale motivo doveva? Ecco, io posso arrivare a ipotizzare che degli andreottiani fossero dietro a quell'omicidio per proteggere i loro interessi personali, eccetera, ma non Andreotti. Come, per esempio, io credo che Andreotti non abbia avuto una parte attiva nella decisione di mollare Moro e farlo massacrare. Quella è una responsabilità di Cossiga e devo dire, purtroppo, in una certa misura è una responsabilità anche del PCI di Berlinguer, che non volle assolutamente aprire alcuna trattativa che invece bisognava aprire per salvarlo. A differenza dei socialisti. Andreotti ha la colpa semmai di aver lasciato fare Cossiga, ma direttamente no, non ha avuto responsabilità in quella vicenda. Da ultimo, non credo assolutamente nella favola dell'Andreotti mafioso. Andreotti aveva rapporti con Salvo Lima, che era il suo proconsole in Sicilia, che era legato alla mafia. E infatti, quando poi non farà quello che la mafia avrebbe voluto e si sarebbe aspettato, come è noto, ha fatto una brutta fine. Ma che Andreotti abbia mai incontrato, il capo della mafia, o comunque non ci credo, è assolutamente al di fuori del personaggio che, prudentissimo, non avrebbe mai fatto un gesto che gli sarebbe costato un ricatto a vita. Ecco, queste sono le tre cose che Andreotti non ha fatto. Poi ha protetto Lima, va bene, poi ha lasciato fare Cossiga, giusto, però poi magari nella sua corrente c'erano quelli che hanno fatto l'operazione Pecorelli, ma che personalmente abbia avuto un ruolo in queste vicende, no. Anzi, abbiamo elementi anche di prova, al di là delle assoluzioni che valgono quello che valgono, abbiamo elementi di prova che ci fanno capire che Andreotti a quelle tre cose è estraneo. Ascolta, una domanda legata al 92-94, perché non menzionavi proprio adesso anche Salvo Lima, no? Che è ucciso dalla mafia proprio nel marzo del 92, no? In un momento in cui poi, insomma, comincia anche la strategia mafiosa di attacco allo Stato, che avrà negli omicidi, negli attacchi terroristici, no? Che costeranno la vita dei giudici Falcone e Borsellino tra il maggio e luglio del 92, alcuni dei momenti, i due momenti chiave, no? Ma che continuerà anche nel 93, all'inizio del 94. Ecco, qual è il ruolo, se un ruolo ce l'ha avuto in realtà, o è stato solo un coprotagonista o addirittura una comparsa, che ruolo ebbe Andreotti nella crisi della Prima Repubblica, negli anni di Tangentopoli, nel cambio di equilibri politici che portarono a quella che fu chiamata la Seconda Repubblica, l'entrata in scena di Berlusconi, i nuovi equilibri che si formano proprio dopo la crisi del 92-94. Ebbe un ruolo Andreotti, in fin dei conti fu una comparsa? Allora, questo è uno di quei classici esempi di rovesciamento per cui ad Andreotti si rimproverano le cose che non ha fatto e gli si fanno passare le cose che invece ha fatto. Allora, nella caduta della Prima Repubblica Andreotti è stato obiettivamente uno dei bersagli. Infatti gli attacchi furono a tutti gli altri per le tangenti, a lui per la mafia e per il caso Pecorelli. E fu il modo per metterlo fuori combattimento e in effetti venne tenuto legato per oltre un decennio al ruolo di imputato che lo tenne lontano da qualsivoglia possibilità di svolgere un ruolo perlomeno aperto politico. Quindi lì obiettivamente lui è stato uno dei bersagli. Però in compenso non si parla mai del ruolo che ha avuto per tirare la volata a Berlusconi. Vorrei ricordarti una cosa: Berlusconi è appoggiato all'inizio in buona parte alla finanza cattolica, e un ruolo particolare ce l'ha la banca di Novara. Ebbene, viene fuori dalle confidenze di un importante uomo d'affari a un dirigente del Partito Comunista, che lo riferisce in una relazione di cui io trovo copia, e che ha interessi cospicui all'interno, è praticamente azionista di rilievo del Banco di Novara, la moglie di Andreotti. E lì ci sono anche altri elementi che portano in quella direzione. Quindi lì diciamo che Andreotti un po' gli ha dato una bella mano. Questo sì. Come vedi, le cose che ha fatto sono quelle che sono passate più sotto silenzio, e quelle che non ha fatto gli vengono rimproverate. Tra l'altro, no, proprio in quella frangente, parliamo della primavera del 92, Andreotti, no, come racconta tra l'altro anche a modo suo Sorrentino nel film Il Divo, insomma, sperava e immaginava di poter essere eletto Presidente della Repubblica proprio sì, nei giorni in cui poi scoppierà, insomma, tutto il sistema cadrà. E lì c'è il ruolo degli americani per impallinarlo. Io dedico quasi un capitolo al come si fa per tagliare le gambe ad Andreotti con la copertura di Scalfaro. Scalfaro sarà Scalfaro, e ti ricordi chi è che propone Scalfaro come presidente? Cosa abbastanza insolita, è Pannella. Te lo ricordi? Ci fu anche il ruolo, si dice, no, a volte di Claudio Martelli, o sbaglio? Pannella fu quello che lo propose dall'inizio come il Pertini cattolico. Quindi lì fu tutta un'operazione. Tra l'altro c'erano vecchissime ruggini fra Scalfaro, che era della corrente di Scelba, sì, e Andreotti, che è quello che rompe con i vecchi popolari facendo la corrente sua, ed è sempre stato odiato furibondamente dagli scelbiani. Vedi quando ti dico che nella DC era poco amato. Lì c'è tutta un'operazione che è fatta essenzialmente dai democristiani di cecchinaggio di Andreotti, e che riesce. Lui non riuscirà mai neanche ad avanzare la sua candidatura. Sai che non ufficialmente sarà sempre nell'aria, ma non ci sarà mai una sua candidatura aperta al Quirinale. E quello, Aldo, possiamo dire, insomma, che è stato la fine reale della sua carriera politica. Eh sì. Beh, perché se ce l'avesse fatta, è ovvio che tutti i processi sarebbero squagliati, figura il Presidente della Repubblica, eccetera. È un uomo di quell'abilità, di quell'intelligenza, figurati non trovare il modo di riemergere. Sicuramente. E invece no, invece bisognava farlo fuori, ma perché dietro c'erano tutta una serie di operazioni internazionali molto importanti. Ad esempio? C'era tutto il problema delle conferenze per il disarmo, eccetera. Io dedico parecchio spazio a questa faccenda. E infatti il momento in cui tentano di incastrare nell'attentato al Papa il grande amico di Andreotti, Monsignor Morion, non a caso, perché è legato a tutto questo contesto. Ascolta, una cosa che secondo me è anche interessante è, diciamo, da un lato l'immagine pubblica di Andreotti, e in fin dei conti ne abbiamo anche parlato, no? Sì. Quanto ha pesato secondo te un film come quello di Sorrentino, Il Divo, per rafforzare una serie anche di miti duri a morire su Andreotti e creare appunto un'immagine, no? Un immaginario del Divo Giulio? E dall'altra invece il lato personale, che si collega ed è anche presente ad esempio proprio nel film Il Divo, no? Un uomo con una vita molto limitata alla famiglia e al partito, con orari di lavoro incredibili, con una grandissima memoria, con un archivio di appunti incredibile durante più di mezzo secolo. Ecco, insomma, quanto c'è di vero anche qui, quanto ha pesato, no, la creazione di un immaginario anche un po' mitizzato, e quanto è stata poi invece poi in realtà la vita anche al di là del ruolo pubblico di Andreotti? Beh, in realtà l'immaginario già c'era prima del film di Sorrentino, che fece molto arrabbiare Andreotti, che lo definì una mascalzonata, secondo me una reazione eccessiva. Qui devo dire una cosa, che secondo me il creatore di quell'immagine, di quell'immaginario, è stato Giulio Andreotti, perché obiettivamente lui molto si compiaceva di questo ruolo, del personaggio estremamente spregiudicato, anche cinico, anche, ecco, in qualche modo lui ha creato l'immagine di se stesso in una certa misura. Sorrentino, secondo me, non ne ha dato un'immagine equilibrata, però, diciamo la verità, grandi novità non ne ha date. Ha ricalcato il cliché che c'era, comprese le accuse, a mio avviso, ingiuste contro Andreotti. Non ha invece indagato sugli aspetti che meritavano di essere indagati. Però, insomma, definire quel film una scalzonata è eccessivo. La verità è che Andreotti era molto personaggio. Io prima ti ho detto una cosa, ti ho detto che personalmente l'ho sempre avuto simpatico. Sì. Pur nell'avversione politica. E ti posso dire una cosa, che della sua leggendaria memoria sono testimone diretto. Lui, io ebbi uno scambio di... gli mandai un mio libro con un bigliettino, lui rispose, io ulteriormente risposi, eccetera. Passano 8 anni... viene in facoltà giù da noi a Bari per una conferenza organizzata da quelli di Comunione e Liberazione, che peraltro erano, sul piano personale, erano miei amici, anche se poi politicamente ovviamente no, ma e i ragazzi di CL ci tennero a presentarmi ad Andreotti. Andreotti, appena sentì il nome, perché non mi aveva mai visto prima, certo, dice Aldo Giannulli, ah, lei è quello del biglietto che mi ha mandato. Si ricordava, e quando le altre volte l'ho incontrato in commissione stragi o anche semplicemente se ero andato a sentire una conferenza, mi ha sempre salutato chiamandomi per nome e cognome. Sì. Come questo... facesse a ricordarsi con tanta precisione, eccetera, guarda, resta un mistero. Questo fa parte del personaggio Andreotti e paradossalmente è quello che ha creato poi anche questa immagine un po' luciferina. Sì. L'uomo che tutto sa, che tutto controlla. E che tutto ricorda. E che tutto ricorda, ovviamente. Sapere è potere, per andare un po' su una banalità. Sa, ricorda. Esattamente. Dai, il personaggio era questo. Però ti devo dire una cosa. Tu sai che io sono barese di origine, sì, e quindi ero concittadino di Aldo Moro, che personalmente non l'ho mai incontrato, se non proprio sfiorandolo in alcune iniziative, in alcuni momenti, così, eccetera. Vedi, Moro era un personaggio estremamente più freddo dal punto di vista umano di Andreotti. Io ricordo una sera che incontrai per caso Moro a Via Sparano, con tutto il corteo dei suoi seguaci, c'era stata una riunione di corrente. Lui camminava avanti levitando come Gesù sulle acque, dietro Dell'Andro e l'altro deputato di corrente, dietro il sindaco e il consigliere, tutti in ordine rigorosamente gerarchico, che seguivano questo capo irraggiungibile, lui solo davanti. Questa era l'immagine di Moro. Andreotti invece, le volte che mi è capitato a Roma di vederlo, era sempre in mezzo alla gente. Sì, sì. Guarda, sotto questo aspetto, una delle cose dell'immaginario di Andreotti è l'Andreotti dal punto di vista delle sue relazioni umane, ed era un uomo capace di relazioni umane anche abbastanza cordiali, abbastanza. Ti ho detto il fatto che io, che sono l'ultima ruota del carro, che avrò incontrato pochissime volte, cioè, mi ricordava sempre come mi chiamavo. E tra l'altro anche una caratteristica di Andreotti era l'ironia. Fu anche autore di alcuni libri, non voglio dire non saggi politici, no? Il buono e il cattivo, sì, uno di questi, ad esempio. Tanti libri. Aveva questa vena ironica, anche con un cinismo simpatico, diciamo così, no? Era quello che faceva la simpatia del personaggio. Però ti posso dire, era anche quello che induceva molti suoi avversari a diffidare. Certo. Quella vena ironica, eccetera, suscitava anche ostilità. Aldo, un'ultimissima domanda per salutarci, telegrafico. Il tuo libro esce... Grazie a te. No, al contrario. Il tuo libro esce a 10 anni dalla morte di Andreotti, no? 1919-2013, sì. Quando se ne andò il divo Giulio. 10 anni esatto. Dopo, cosa è rimasto dell'eredità di Andreotti e soprattutto che cosa è rimasto di Andreotti 10 anni dopo la morte, no? Come sempre in Italia si celebrano i tanti coccodrilli quando un politico, una figura pubblica muore. Ecco, ormai sono passati 10 anni. Cos'è rimasto di Andreotti? Niente, perché non c'è più il suo mondo. Andreotti era un pezzo di un mondo molto di un'epoca in cui c'era un certo modo di far politica, c'erano dei personaggi, c'erano delle regole, c'erano i partiti, cioè tutto questo non c'è più. Oggi Andreotti non saprebbe con chi parlare. Secondo te con chi parla? Con la Meloni, con la Schlein? Non si capirebbero, capisci? Cioè, lì il problema non è Andreotti, il problema è che è finta quell'epoca ed è stata sostituita dal nulla. Questo purtroppo è il nulla. Lo stesso potremmo dire di Craxi, sai? Ah, certo. Identico. Certamente, certamente. Una generazione politica che è scomparsa o sta scomparendo, gli ultimi rappresentanti che ancora ci sono. Aldo Giannulli, Aldo, grazie davvero di essere stato con noi. Andreotti, il grande regista, il suo ultimo libro, Ponte alle Grazie, cercatelo, perché 70 anni di storia politica italiana, come recita il sottotitolo, Fra luci e tenebre, dalla parte del potere, che racconta tantissime cose, ce ne hai dato prova anche in questa intervista, in questa chiacchierata quest'oggi qui a Zibaldone. Aldo, davvero grazie e mi auguro a prestissimo. Grazie a te, Steven. Grazie. Io so tutto il contrario di questo, e si può dire che sono un uomo onesto, ma l'onestà può anche fare paura, dipende dalla forma e dalla procedura, e in questa mia grande memoria porto il peso dei segreti e della storia. Io so tutto ma lo tengo per me, che il potere nasce dal sapere, sapere ho le risposte che valgono oro. Io so tutto sui giorni di Moro, potrei dirvi del botto di Ustica, fare chiarezza sulle storie di plastica, ho le risposte che viaggiano piano dietro l'asse Palermo-Milano. Io so tutto sui troppi segreti dietro gli angoli del Vaticano. Io so tutto di tutti, tutto, io so tutto. Io so tutto di tutti, tutto, di voi, di noi, di me, di te. Io so tutto perché sono vecchio, da quando ho compiuto 20 anni e ho visto scivolarmi addosso processi, inquisizioni e malanni. Ho le risposte lì sopra i ripiani sui più grandi stragisti italiani. Su ogni pallottola e su ogni bomba me le porterò con me nella tomba. Io so tutto di tutti, tutto, io so tutto. Io so tutto di tutti, tutto, di voi, di noi, di me, di te. Le risposte che viaggiano piano dietro l'asse Palermo-Milano. Io so tutto di tutti, tutto. letto e non ho mai dormito, e da sempre ho lo stesso vestito. Sono il complice di una nazione, tra il vero e la contraddizione, le risposte che aspettano l'ora, le risposte che fanno paura, le risposte le tengo nel buio, quanto è vero che mi chiamo Giulia. Io so tutto di tutti, tutto di voi, di me, le risposte che viaggiano piano, dietro l'asse Palermo e Milano. Io so tutto di tutti, tutto di voi, di noi, di me, di te, io so tutto. Il premier ungherese Orbán, presidente di turno del Consiglio europeo, vola a Kiev e chiede una cassetta, si mette le cuffiette e la musica di Rod Stewart corre le parole di Zelensky. Il suo, un discorso molto alto, ma probabilmente non abbastanza a spiegare soddisfatta Meloni. La destra di Marine Le Pen, dopo la sconfitta per il ballottaggio, guarda al futuro e punta al papato nel 2048. Dinamica tutta da chiarire. Voci di un possibile passo indietro di Biden sul Concilio Vaticano II. Svelato il calendario della Serie A che passerà in mani tedesche prima al 41% e in una seconda fase al 33%. Giorgetti, chiusa vicenda annosa. L'Inter, campione d'Italia, debutta in casa del giovane portiere Diogo Costa, che si sarebbe allontanato già da una decina di giorni insieme alla famiglia. Potenziata l'app Musei Italiani più forti, con informazioni più giovani. Il ministro San Giuliano, abbiamo rotto gli schemi. D'Annunzio fu un estetista. Garibaldi scrisse sui social con il cellulare. Il muro di Berlino cadde nel Po a Cremona. Dinamica tutta da chiarire. Mandato di arresto internazionale per l'uomo che ha fatto sbagliare Cristiano Ronaldo II. Compagni e tifosi, una condotta disumana, priva dei più basilari valori di solidarietà. Una volta trovato sarà gettato nell'alto forno della fonderia di Pontedera, in provincia di Pisa. Eh beh, avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Io devo dire che c'è tanta politica internazionale, anche politica italiana, ovviamente c'è lo sport per gli europei di calcio, però insomma, ecco, è proprio vero che le ultimissime ci mostrano una realtà diversa da quella di media tradizionali, perché io non ho ben capito alcune delle cose, oggi non c'è il Banzo a spiegarmele, quindi vabbè, lo lasciamo qui. Questa è anche l'ultima puntata, l'ultima puntata delle ultimissime prima dell'estate, perché la prossima settimana, già ve lo annuncio come lo sapete, come ormai tradizione ci sono, c'è lo speciale Le canzoni dell'estate, con cui ci salutiamo ogni anno prima della pausa estiva, e quindi anche le ultimissime torneranno a settembre nella nuova stagione di Zibaldone. Prima delle ultimissime ci siamo sentiti un altro brano che è chiarissimo, riporta un po', no, queste immagini che si è consolidata da Andreotti. Ne parlavamo anche con Aldo Giannulli, che il divo di Sorrentino ha rafforzato. Il brano era Io so tutto di Fabrizio Moro, uscito nel 2013 nell'album intitolato L'inizio, poco dopo appunto la scomparsa di Giulio Andreotti. Andiamo avanti con un'altra canzone, una canzone che in questo caso non parla di Andreotti, parla però della Democrazia Cristiana. Siamo ai primi anni 70. Il padre eterno, quel pio brav'uomo, molto scocciato dal gran frastuono, dette uno sguardo e disse a Pietro: va giù a vedere, poi torna indietro, guarda che fa questa vecchia DC, fammi un rapporto e spediscilo qui. Il bravo Pietro, per non mettersi in vista, giunse in Italia come turista, parlò col ricco, parlò col potente, ma soprattutto con povera gente, raccolse notizie sulla DC. fece il rapporto e lo rispedì. Le cose vanno male, diceva il rapporto, la gente protesta e non ha torto. Questa DC è causa di guai, promette sempre, mantiene mai. È prepotente, bugiarda e maldestra, quando ha paura si butta a destra. Scusami tanto mio padre eterno, questa DC io la sbatto all'inferno. Predica bene e razzola male, difende solo il gran capitale. Pensa al potere, non fa le riforme, firmato Pietro per copia conforme. Molto arrabbiato, lesse il rapporto tutto d'un fiato e pensò subito da buon padre eterno, questa DC vada pure all'inferno. Prese la penna, firmò la condanna, poi più tranquillo se ne andò a nanna. Prese la penna, firmò la condanna, poi più tranquillo se ne andò a nanna. E forse molti non la conoscono, questa è una canzone degli Stormy Six, ebbene sì, la band guidata da Franco Fabbri, che era vicinissima all'epoca alle istanze del movimento, del movimento studentesco milanese, da cui tra l'altro proverrà solo pochi mesi dopo il nuovo cantante, Umberto Fiori, accettò in vista delle elezioni politiche del 1972 la proposta del Partito Comunista di compiere un tour di un mese nel Veneto Bianco prima delle elezioni di quell'anno e seguendo i comizi dei candidati comunisti, e in una stanza d'albergo con mezzi di fortuna, come avete potuto sentire dalla registrazione, incisero anche un 45 giri di propaganda elettorale che conteneva anche questo brano, La ballata della DC, una ballata satirica e critica dedicata al partito che, come dicevano appunto gli Stormy Six e cantavano, promette sempre, mantiene mai. Beh, insomma, di brani sulle DC ce ne sarebbero tanti altri, magari lo lasciamo per una puntata del futuro. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 12 luglio di Zibaldone, vi salutiamo come sempre con un ultimo trago, il bicchiere della staffa per così dire, che da ormai un po' di mesi, da oltre un anno, è diventato anche De Italia Otra Parte, ossia canzoni di artisti italiani interpretate in lingua spagnola. In questo caso è un De Italia Otra Parte, un ultimo trago e un omaggio, perché da poco è scomparso Pino D'Angiò, famosissimo per quella canzone di oltre 40 anni fa intitolata Che Idea. Nel 1982 uscì anche una versione spagnola e quindi noi ci andiamo a sentire Che Idea, che si pronuncia uguale ma si scrive diversa, che è la versione spagnola cantata dallo stesso Pino D'Angiò del suo successo. Pino D'Angiò, uno dei tanti cantautori italiani influenzati, no? Probabilmente lo sapete tutti, a cavallo tra gli anni 70 e 80, dallo stile di Fred Buscaglione, no? Potremmo citare anche Sergio Caputo, il Vasco Rossi, che cita il Roxy Bar in Vita Spericolata. Ecco, Pino D'Angiò, napoletano, al secolo Giuseppe Chierchia, è scomparso appunto a 71 anni e è forse quello che ha raggiunto il maggior successo internazionale, no? Dall'Europa continentale fino al Sud America. Che Idea uscì nel 1981, fu ripresa e remixata in ogni dove, ma curiosamente le cover estere hanno sempre utilizzato il testo in italiano, con risultati, bisogna dirlo, non sempre convincenti. Invece, ad esempio, che quello spagnolo che D'Angiò pubblicò pochi mesi dopo, era il 1982, della versione originale in italiano. E è proprio questo il brano, come vi dicevo, con cui ci salutiamo e chi vi proponiamo. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per l'ultima puntata di Zibaldone, prima delle vacanze estive. Che Idea, Pino D'Angiò, buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore. Discoteca su mirada de serpiente, me sorqué disimulando y me puse frente a frente, su mirada y mi mirada, de repente se encontraron. Fred Astaire a nuestro lado, era estático y parado, disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca. Ya la viste emocionada, impresionada, trastornada. Se me puso tan alta que esta tuve que parar. Pero luego al abrazarla se me puso disparada. La cogí por la cintura y me hizo mermelada. Oh yeah, se dice así, ¿no? Después, qué idea. Caminé, aparte de asco que la estás. Qué idea. Mira, mira, aparte te vas a llevar. Sabrá tener a raya un reído como tú. Más que nadie, solo rol de juventud. Qué idea. Gran idea. Aparte de asco que la estás. Qué idea. Toca, toca. Que corte te vas a llevar. Te hará dar vueltas sin que puedas nunca conseguir las cosas que pretendes. Eres en el fondo un infeliz. Y la llevo hasta su mesa. La pregunto complaciente, ¿quieres una naranjada? Pero el whisky se me agarra, 5 litros que se traga. Me pregunto, a ver si ahora la besaba, me besaba. Pero vuelve a escabullirse de las manos, se me escapa. Me miraba, la miraba, se perdía, la buscaba, la encontraba, la seguía, la cogía, se soltaba y al final arrinconaba y ella se me desmayaba. Oh yeah, se dice así, ¿no? Después, qué idea. Gran idea, aparte de asco que las das. Qué idea. Mira, mira, qué corte te vas a llevar. Sabrá tener a raya un engreído como tú. A ver que tienes más que nadie, solo rollo y juventud. Qué idea. Gran idea, aparte de asco que las das. Qué idea. Okay, there.